TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Udienza davanti al Tribunale del Riesame di Trieste sull'istanza di scarcerazione di Meilin Castro Monsalvo, la donna di 31 anni, cittadina colombiana, accusata insieme alla suocera Lorena Venier dell'omicidio e del vilipendio del cadavere del compagno Alessandro Venier. Terminati i disagi alla circolazione ferroviaria tra Trieste e Venezia, iniziati dopo l'investimento all'alba di una persona nella stazione di Monfalcone, sono stati più di una decina i treni regionali cancellati e diversi altri hanno accumulato ritardi fino a 2 ore. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Tacitiana, a Monfalcone, per l'incendio della cucina di un appartamento vuoto. Sul posto 4 mezzi di spegnimento e un'autoscala, evacuato l'intero condominio in fase di accertamento, le cause. Sanità in primo piano oggi in Consiglio regionale, in sede di terza commissione. Nello specifico si parla delle linee di indirizzo regionali in materia di mobilità sanitaria passiva e del posizionamento degli ospedali della regione alla luce della riforma nazionale del servizio sanitario. Firmata la convenzione quadro tra l'Università di Trieste e Friuli Venezia Giulia Energia S.p.A., l'accordo riguarda la promozione della transizione energetica e prevede la nascita di collaborazioni operative e progetti nel campo dell'energia sostenibile. Da oggi l'Università di Udine lancia un programma di iniziative per sensibilizzare i cittadini e soprattutto le nuove generazioni sulla gestione sostenibile dell'acqua. Le Paralimpiadi di Milano Cortina nel Super G, valido come prima prova per la combinata, la monfalconese Martina Vozza e la guida Ilenia Sabidussi hanno concluso al 6° posto la prova di discesa. Tra mezz'ora è previsto lo slalom. Le 12:32 minuti, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e da Livia Liberatore in studio a condurre insieme questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 10 marzo. Oggi era in programma l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Trieste in merito all'istanza di scarcerazione di Meilin Castro Monsalvo, la donna di 31 anni, cittadina colombiana, accusata insieme alla suocera Lorena Venier dell'omicidio e del vilipendio del cadavere del compagno Alessandro Venier, ucciso il 25 luglio scorso nell'abitazione dove tutti e tre vivevano a Gemona. Sentiamo allora com'è andata. Collegata dal carcere femminile della Giudecca con accanto l'avvocato Francesco De Carlo, appena dimessa dall'ospedale psichiatrico di Venezia dopo un ricovero d'urgenza scatenato proprio dalla detenzione in carcere, Meilin Castro Monsalvo ha partecipato all'udienza in videocollegamento nell'aula del riesame del Tribunale di Trieste. Federica Tosella, avvocato della giovane colombiana accusata d'aver ucciso e fatto a pezzi il compagno assieme alla madre di lui, Lorena Venier, nella loro villetta di Gemona, ha chiesto un appello cautelare. La detenuta, secondo il legale, non è in grado di affrontare la detenzione in carcere. Qui si tratta di curare un'indagata che ha dimostrato che probabilmente l'ambiente carcerario, l'ambiente penitenziario non è il posto migliore dove poter riacquisire un equilibrio che noi riteniamo assolutamente necessario e prioritario. Non si sta parlando di scarcerazione, spiega Tosel, ma di trasferimento in una struttura adeguata. Una struttura potrebbe essere o un CSM o una REMS, insomma, valuteranno ovviamente i giudici. Giorgio Milillo, titolare delle indagini, ha disposto un accertamento tecnico e ripetibile che valuti la capacità di intendere e di volere di entrambe le due indagate, da capire anche la capacità processuale. La scorsa udienza era stata rinviata perché la signora Castro non era in grado di capire la notifica. Ecco, quella è la capacità processuale che il dottor Milillo intende accertare. Il 31 gennaio scorso la bimba della coppia ha compiuto 1 anno, metà della sua vita l'ha trascorsa in una casa famiglia a cui è stata affidata dal giorno del ritrovamento del corpo del padre. La famiglia della madre, residente in Colombia, ne ha chiesto l'affidamento. Credo che ogni giorno lontano dalla loro famiglia sia un giorno perso, quindi spero veramente che il Tribunale dei Minori acceleri quanto più possibile l'affidamento della bimba ai nonni. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono terminati da poco i disagi alla circolazione ferroviaria tra Trieste e Venezia, iniziati dalle 6 di stamattina a seguito dell'investimento di una persona nella stazione di Monfalcone. Sono stati più di una decina i treni regionali cancellati e diversi altri hanno accumulato ritardi fino a 2 ore. La circolazione è stata sospesa fino alle 7:30 circa, poi è ripresa gradualmente. Ritardi anche per 4 treni ad alta velocità, di cui uno, quello per Roma delle 6:38, è stato parzialmente soppresso. In stazione a Monfalcone sono intervenuti i vigili del fuoco e l'autorità giudiziaria per i rilievi. E i vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Tacitiana, Monfalcone, per l'incendio della cucina di un appartamento vuoto avvenuto attorno alle 5.30 di mattina. Sul posto 4 mezzi di spegnimento e un'autoscala, evacuato l'intero condominio, ancora in fase di accertamento le cause. Sono ancora in corso le attività di bonifica e di controllo dei danni. Dalle prime informazioni, un appartamento al terzo piano avrebbe riportato il crollo del soffitto. Inagibile anche il quarto piano, mentre altri tre sono in fase di pulizia. Rimane ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Udine la donna di 49 anni aggredita ieri dal suo cane, un pitbull, a Cormons, in un'abitazione di Viale Venezia Giulia. La donna è stata morsa all'avambraccio sinistro, alla mano destra e a una gamba. Ieri sera ha subito un delicato intervento chirurgico per ricostruire l'avambraccio, che è stato così salvato. E c'è stato un infortunio sul lavoro accaduto la notte scorsa nella fonderia Cividale di Via dell'Industria Cividale del Friuli. Un operaio è caduto dall'altezza di 4 metri nella fossa di stoccaggio stampi. L'uomo è rimasto sempre cosciente e ha riportato alcune ferite agli arti inferiori. Tre incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza sono avvenuti lo scorso sabato sera nel territorio presidiato dai controlli dei carabinieri di Udine, che richiamano i guidatori alla responsabilità. Si è trattato di tre fuoriuscite autonome a Martignacco, a Codroipo e a Gemona. In tutti e tre i casi i conducenti, risultati positivi all'alcol test, hanno avuto la patente ritirata e l'auto sequestrata. Sanità in primo piano oggi in Consiglio regionale in sede di terza commissione. Nello specifico si parla delle linee di indirizzo regionali in materia di mobilità sanitaria passiva e del posizionamento degli ospedali della regione alla luce della riforma nazionale del servizio sanitario. La regione Friuli Venezia Giulia sta contrastando la fuga dei pazienti verso altre regioni, aumentando ricoveri e attività ambulatoriali. E questo è il senso della relazione della direttrice sanitaria di ARCS, Laura Recattin, di fronte alla terza commissione del Consiglio regionale. ARCS è l'azienda regionale di coordinamento sanitario. Regattina ha parlato di quello che tecnicamente si definisce aumento della produzione per far fronte all'invecchiamento della popolazione. Il cambiamento demografico comporta infatti un incremento di determinate prestazioni, tra cui protesi per anca, ginocchio e spalle, interventi su cataratta, artroscopie e risonanze magnetiche. L'audizione era stata chiesta dall'opposizione dopo che la Corte dei Conti aveva segnalato una tendenza decennale di un aumento della fuga di pazienti dal Friuli Venezia Giulia verso altre regioni, in particolare in Veneto, un saldo che nel 2023 è stato negativo per 14 milioni secondo l'Agenzia Nazionale Agenas. A parere di Regattin, la fuga sarebbe stata maggiore se il sistema regionale non avesse risposto incrementando la produzione sanitaria, per esempio su cataratte e protesi, con aumenti per queste ultime di circa il 30% rispetto al pre-Covid. Alla base dell'aumento del saldo negativo c'è la fuga per ricoveri, in particolare verso strutture private convenzionate del Veneto, in buona parte quelle vicine al confine con la nostra regione. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Investimenti in corso, prospettive di sviluppo e ruolo internazionale dei porti di Trieste e Monfalcone sono stati al centro dell'incontro tra il presidente di Assoporti, Roberto Petri, e i presidenti delle 16 autorità portuali, svoltosi ieri a Venezia. La crisi in Iran non impatta solamente il traffico merci, la situazione si ripercuote direttamente sulle rotte croceristiche nel Mediterraneo. Le grandi compagnie stanno rivedendo i loro programmi, lo ha dichiarato il presidente di Assoporti, Roberto Petri, a margine dell'incontro con i 16 presidenti delle autorità portuali italiane a Venezia. L'uomo al vertice della rete di 62 porti italiani, tra questi quello di Trieste, è pessimista in quanto la strategia israelo-statunitense consente al momento pochi margini di manovra. L'incertezza per i traffici marittimi è destinata a rallentare per il 2026, ha ribadito Petri. Suez a ritmo ridotto e Stretto di Hormuz chiuso rappresentano già una situazione d'emergenza. In merito Petri ha chiesto più coordinamento tra scali e ha chiesto di evitare forti scossoni interni, posticipando la riforma dei porti. Sul fronte dell'approvvigionamento logistico, MSC, uno dei principali vettori logistici del porto di Trieste, ha dichiarato di aver sospeso alcune esportazioni dal Golfo e di aver scaricato merci dalle navi nei porti sicuri più vicini. Decisione che si tramuta in un calo dei container da e per le rotte eurasiatiche. Trieste, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi la Slovenia, paese dove i prezzi del carburante sono fissati dallo Stato e valgono per tutti i distributori, autostrade comprese, ha ritoccato il costo dei carburanti, come avviene con cadenza bisettimanale. Il ritocco vale 0,025 euro al litro in più per la benzina senza piombo 95, che adesso costa 1,457 millesimi al litro, e 0,046 euro al litro per il diesel, che adesso costa 1,51 centesimi. Restano invariati i prezzi del GPL, del metano per autotrazione e della benzina senza piombo 98. Diminuisce invece di 0,118 euro il cosiddetto diesel premium, il cui prezzo era però stato aumentato la scorsa settimana. Un litro costa adesso 1,796 millesimi, un aumento di prezzi che rende meno conveniente la trasferta oltre confine per fare il pieno. Come è noto per i residenti in Friuli Venezia Giulia, al di qua del confine, si applica infatti uno sconto che arriva fino a 34 centesimi al litro per la benzina e fino a 25 per il diesel. Questa mattina è stata firmata la convenzione quadro tra l'Università di Trieste e FVG Energia S.p.A. L'accordo riguarda la promozione della transizione energetica e prevede la nascita di collaborazioni operative e di progetti nel campo dell'energia sostenibile. Si parte dallo studio delle comunità energetiche rinnovabili della regione, passando per l'ottimizzazione dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici e per i progetti a supporto del Dynamic Pricing, un sistema che permette di monitorare in tempo reale la disponibilità e i prezzi di energia forniti dalla rete. Nasce su questi tre pilastri la collaborazione tra l'Università degli Studi di Trieste e la partecipata Regione Friuli Venezia Giulia Energia. La convenzione quadro firmata questa mattina nel rettorato dell'Ateneo ha l'obiettivo di traghettare la Regione verso il target a emissioni zero da combustibili fossili entro il 2045, dunque con 5 anni di anticipo rispetto ai tempi fissati dalla Commissione europea. Una richiesta, quella di inserire lo studio e la ricerca su fonti di energia rinnovabile all'interno del piano universitario, venuta dagli stessi studenti. Un ruolo centrale nel progetto è affidato al centro interdipartimentale Giacomo Chamichan dell'Università di Trieste, che diventerà il punto di contatto tra l'Ateneo e la società partecipata della regione, che si impegna ad accogliere gli studenti con una formazione specifica in stage e tirocini in vista di un futuro inserimento nel mondo del lavoro nel comparto della produzione di energia pulita. Se l'università, attraverso questa collaborazione, vuole ridurre la distanza dal territorio, Friuli Venezia Giulia Energia punta al recupero di zone periferiche, dando nuova vita a zone militari abbandonate, discariche e siti dismessi, attraverso la creazione di impianti fotovoltaici e piccole comunità energetiche, tasselli di un mosaico che nei prossimi 20 anni dovrà portare all'autosufficienza energetica della regione senza più utilizzare combustibili fossili. Trieste, Dario Tomassini, Friuli Venezia Giulia. Vediamo il tempo, cielo da nuvoloso a variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste e Gorizia 11 gradi e mezzo, a Pordenone 13, a Udine 13 e mezzo, a Sappada 6 gradi, a Forni di Sopra 9, a Tarvisio 10 gradi e mezzo, a Tolmezzo 11, sul Monte Zoncolano 1 grado, sull'Ussari 2 gradi, a Lignano 1 grado, 12 gradi e mezzo. E queste le previsioni secondo l'ARPA, nelle prossime ore cielo da variabile a nuvoloso con possibili foschie o nebbie. In serata su bassa pianura e costa. Nel pomeriggio saranno possibili deboli piogge sparse, specie sulla fascia prealpina, con deboli nevicate oltre i 1400-1600 metri di quota. È del 35,9% la propensione all'espatrio dei laureandi dell'Università di Udine, elaborata sui dati di quasi 2900 studenti che nel 2025 hanno presentato domanda di laurea. Il valore segna un incremento di quasi un punto percentuale rispetto al 35,1% del 2024, ma resta ancora distante dai livelli del biennio pre-pandemia 2018-19, quando superava il 40%. È quanto emerge dal monitoraggio effettuato nell'ambito della rilevazione continua sui laureandi. La propensione ad andare all'estero si attesta al 41,4% tra i laureandi e al 31,4% tra le laureande, con uno scarto di 10 punti percentuali. A incidere motivazioni che vanno ricondotte anche alle attuali instabilità geopolitiche e al loro diverso impatto sulle aspettative degli studenti dei corsi dell'Ateneo. Un'impresa del terziario su due in Friuli Venezia Giulia teme l'aumento dei prezzi e dell'energia. Il dato emerge dall'analisi dell'Osservatorio regionale di Confcommercio sul quarto trimestre 2025, presentato oggi a Pordenone. Il miglioramento della fiducia registrata alla fine dell'anno scorso si scontra con nuovi timori per il futuro legati alle tensioni internazionali. Secondo l'Osservatorio regionale di Confcommercio, sul quarto trimestre 2025, presentato oggi a Pordenone, un'impresa del terziario su due teme l'aumento dei prezzi e dell'energia. Il presidente di Confcommercio regionale Gianluca Madriz. Confidiamo che questi scenari internazionali possano comporsi velocemente e anche l'occasione per fare l'appello alla nostra nazione, al nostro governo, ma soprattutto all'Europa, che abbia un occhio di attenzione immediatamente alle imprese, perché penso solo al caro energia, che è una preoccupazione fondata. A fine 2025 si registrano ricavi sopra la media nazionale, credito più accessibile. Il 38,5% delle imprese ne ha fatto richiesta per fare investimenti. Il direttore scientifico di Format Research, Pierluigi Ascani. Le nuove tensioni geopolitiche hanno rimesso leggermente in discussione le prospettive e le attese delle imprese. I timori maggiori hanno a che fare soprattutto per quanto riguarda i prezzi praticati loro dai propri fornitori, soprattutto per quello che potrà significare in termini di riduzione dei margini possibili. La regione monitora attentamente la situazione e si dice pronta ad eventuali interventi di sostegno. L'assessore regionale Sergio Bini. Non abbiamo mai mancato come regione Friuli Venezia Giulia, ma anche come parlo anche con un'associazione di categoria, di intervenire al fine di alleviare un po' quello che è il quotidiano delle nostre imprese. L'indagine affronta infine il tema dell'attrattività del terziario per i giovani, ritenuto centrale per la competitività. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono oltre 400 i lavoratori inseriti nelle imprese nell'ambito del progetto Gana, iniziativa promossa da Confindustria Alto Adriatico per mettere in relazione formazione tecnica internazionale e fabbisogni di competenze delle aziende. Nelle ultime ore è arrivato in Friuli Venezia Giulia un nuovo gruppo di tecnici specializzati provenienti dal paese africano dove sono stati formati. Il programma ha creato opportunità occupazionali qualificate grazie alla collaborazione con realtà produttive come Fincantieri, Cimolai, Marine Interiors e Veolia che hanno inserito i lavoratori nelle strutture locali. La giornata mondiale dell'acqua sarà il prossimo 22 marzo, ma già da oggi l'Università degli Studi di Udine lancia un programma di iniziative per sensibilizzare i cittadini e soprattutto le nuove generazioni sulla gestione sostenibile dell'acqua. E questo è il titolo del progetto Comunicare H2O che comincia oggi con un incontro all'auditorium della Biblioteca Universitaria dei Rizzi a Udine per parlare di acqua, suolo e risorse naturali con esperti, tra i quali Eleonora Aneggi, coordinatrice del corso in Scienze e Tecnologie Sostenibili per l'Ambiente che sentiamo in questa intervista. È importante parlare di gestione dell'acqua. Sempre di più il nostro territorio, il nostro ambiente, ma tutto il nostro pianeta vede la crisi ambientale come una problematica importantissima e tra le varie problematiche ambientali la gestione dell'acqua risulta proprio essere centrale. Quindi è importante parlare di risorsa idrica, di gestione sostenibile della risorsa idrica, ma non solo di quella. Bisogna parlare di ambiente a 360 gradi e come nell'evento di oggi parliamo infatti di territori sostenibili perché vogliamo portare in aula e portare all'attenzione del pubblico il fatto che l'ambiente è unico e suddiviso in vari comparti che però dialogano tra di loro, è un ambiente complesso e va gestito in quanto tale attraverso delle complementarità e delle prospettive che convergono sulla sua protezione globale. È importante poi parlarne agli studenti, alle generazioni future e per questo abbiamo coinvolto sia studenti delle scuole superiori, sia studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale del nostro Ateneo. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. È in corso la settimana mondiale del glaucoma, iniziativa della World Glaucoma Association per sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce. Il glaucoma, una delle principali cause di cecità irreversibile, colpisce in Italia circa 1 milione di persone, ma almeno la metà ignora di averlo. Per questo sono stati organizzati controlli oculistici gratuiti. A Trieste ha aderito la dottoressa Anna Sparavier, che riceverà, previo appuntamento, nell'ambulatorio dell'Unione Italiana Cieca e ipovedenti di Via Battisti. 120 opere tra dipinti e lavori su carta provenienti da importanti musei europei e statunitensi e da collezioni private. Il concetto di confine come spazio fisico, interiore, simbolico e spirituale in pittura tra 800 e 900 e la mostra Confini da Gauguin a Hopper ospitata in questo periodo alla Villa Manin di Passariano di Codroipo. Una mostra ambiziosa per i numeri e per l'importanza delle opere esposte, Confini da Gauguin a Hopper, in corso a Villa Manina a Codroipo, ha attirato finora più di 100.000 visitatori in 5 mesi. 130 le opere esposte provenienti da 42 musei di tutto il mondo, un lavoro di più di 2 anni frutto della collaborazione tra gli enti della regione e la curatela dello scrittore storico dell'arte Marco Goldin. Il lavoro che ci racconta come nell'Ottocento e nel Novecento, che sono i 2 secoli considerati in questa esposizione, l'idea del confine sia maturata all'interno dell'anima davvero di tantissimi artisti in modo molto diverso. Ogni stanza esplora memoria, interiorità, scelte stilistiche. Il confine diventa forma e paesaggio, va dagli spazi immensi agli interni. E i nomi sono quelli dei più grandi: Cézanne, Monet, Van Gogh, Gauguin, Hopper e tanti altri. Il visitatore rimane in primis tanta bellezza, veramente, anche l'incredulità di essere in un luogo del Medio Friuli e di essere come a Londra, a Parigi, a Berlino, a New York. Questa è proprio un'affermazione che la stragrande maggioranza dei visitatori hanno fatto. Sembra di essere a New York, sembra di essere a Parigi. Il contesto è quello di Villa Manini, dove fervono i progetti, le iniziative da parte dell'ERPA, che è l'ente che cura il patrimonio culturale della regione. L'obiettivo, dicono, è mettere la bellezza a disposizione dei cittadini e proprio dalle segnalazioni del pubblico nascono nuovi servizi, come la sala per ospitare i bambini più piccoli durante la visita della mostra, che per i suoi spazi non consente il transito dei passeggini. Lidia Alessio Verni, direttrice dell'ERPAC. Le famiglie o i genitori che hanno bambini piccoli tra 0 e 6 anni potranno avere a disposizione un laboratorio con delle educatrici e quindi, diciamo, alternarsi nella visita alla mostra. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Udine, nella sede della regione, sono state presentate le opere finaliste della 33esima edizione del Premio Letterario Internazionale La Tisana per il Nord-Est, iniziativa promossa dal Comune di La Tisana e dalla Biblioteca Civica Cittadina. I 3 finalisti del Premio Narrativa sono Margherita dei Ribelli di Fabrizio Bozzetti, Guance Bianche e Rosse di Elisa Menon e La Gatta alla Fine del Mondo di Robert Perisic. Sono stati comunicati inoltre i vincitori degli altri riconoscimenti. Il Premio Alleanza 3.0, assegnato dalla giuria dei lettori, è andato a Promettimi che non moriremo di Mara Carollo, mentre il premio Banca 360 FVG, attribuito dalla giuria dei ragazzi, è stato assegnato a La cassetta delle lettere per i cari estinti di Lorenza Stroppa. La serata conclusiva della 33esima edizione del premio si terrà sabato 18 aprile alle 20.45 al Teatro Odeon di La Tisana. Lo sport, con le Paraolimpiadi di Milano Cortina nel Super G, valido come prima prova per la combinata, la monfalconese Martina Vozza e la guida Elenia Sabiduzzi hanno concluso al 6° posto la prova di discesa. Alle 13 è previsto lo slalom. Nel Super G valido come prima prova per la combinata, la monfalconese Martina Vozza e la guida Elenia Sabiduzzi concludono al 6° posto la discesa con un ritardo di 6 secondi e 54 centesimi sull'altra coppia azzurra Mazzel Cottini, vincitrici del Super G di ieri. La Vozza è scesa con la solita determinatezza, trovando però un tracciato non adatto alle sue caratteristiche dopo una partenza a tutto gas che le aveva visto raccogliere il miglior tempo al primo intermedio. Siamo un po' più indietro, però alla fine oggi non era tanto un super G per me in questo momento. Era molto più dritto rispetto a ieri, molto più veloce. Quest'anno ci siamo allenate, abbiamo fatto 5 giorni di velocità, quindi su un facile, quindi arrivare già qua e fare la discesa al super di ieri comunque con quei risultati è stato molto bello e positivo, non ce lo saremmo aspettate. Oggi sì, siamo un po' più indietro, sicuramente è stato più difficile per me, però c'è ancora lo slalom dove posso fare bene, lo sappiamo, e dove in slalom succede di tutto. Ora si punterà a fare meglio nello slalom che inizierà alle 13 e recuperare qualche posizione. Ilenia Sabiduzzi. Oggi sapevamo che sarebbe stato molto più difficile per noi perché nei pezzi in cui bisognava andare tanto dritte con le punte in giù in pendenza non siamo ancora pronte, sicuramente lo sappiamo. Abbiamo ancora lo slalom e siamo pronte lì. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli di teatro di Dario Fo e Franca Rame stasera al Teatro Rossetti di Trieste. In sala Bartoli l'attore Ugo Dighero si cimenterà nel monologo Il primo miracolo di Gesù Bambino, tratto da Mistero Buffo. Poi con La Parpaia Topola, tratto invece da Il fabulazzo osceno. Inizio alle 19.30. E sempre al Rossetti, ma in sala Generali, ci sarà invece il concerto, solo per stasera, di The Barricades Boys, con i 4 protagonisti maschili di Les Misérables di Londra. Nello spettacolo spettacolo raccontano la storia della loro amicizia con canzoni e dialoghi che ruotano attorno al famoso musical alle 20:30. Continua a Trieste la terza edizione del ciclo Capire le migrazioni internazionali, promosso da diverse realtà del settore. Alle 17 al Circolo della Stampa, insieme all'avvocata Caterina Bove, interverrà il giornalista e ricercatore Fabio Chiusi, specializzato in nuove tecnologie e intelligenza artificiale, per parlare dell'uso dei sistemi automatizzati nella gestione delle frontiere e delle politiche di asilo e del loro impatto sui diritti fondamentali. Lo abbiamo sentito al telefono. L'intelligenza artificiale alle frontiere in questo momento è ancora un progetto in molti casi, e in molti casi però è già anche una realtà, quindi sta incominciando ad automatizzare alcune procedure di asilo, sta incominciando ad automatizzare i controlli ai confini e sta incominciando ovviamente a intervenire nella selezione di chi, nella decisione su chi, diciamo, ha diritto di essere considerato una persona non a rischio e quindi di entrare in Unione Europea senza particolari, per esempio in Unione Europea senza particolari problemi, e invece chi rappresenta di per sé un problema, perché ci sono appunto delle forme di valutazione del rischio algoritmiche automatizzate e non, che dicono che queste persone sono problematiche e quindi vanno osservate in un altro modo, vanno intradate verso la deportazione comunque, insomma. Che impatto ha questo sui diritti umani? Beh, potenzialmente ha un impatto enorme, perché noi sappiamo che queste tecnologie sono tecnologie che tendono a riflettere i bias, cioè i pregiudizi delle persone che li costruiscono e della società in genere, e in questo momento la società ha una forte componente anti-immigrazione, a prescindere molto spesso dai diritti delle persone migranti, e questo significa che naturalmente l'AI rischia di automatizzare e rendere ancora più efficiente, diciamo, questa violazione sistematica dei diritti delle persone, per cui è una questione molto problematica che andrebbe affrontata anche oggi, in particolare se si pensa al ruolo che l'intelligenza artificiale sta avendo anche nella difesa. Quindi in questo contesto geopolitico i confini naturalmente diventano non soltanto luogo di migrazioni ma luogo anche di scontro, e quindi anche lì l'intelligenza artificiale interviene come. E alle 12:57 minuti termina qui questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Livia Liberatore e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR alle ore 15. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.